Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, bentornati a Salva Danaio da Deborah Rosciani. E allora, oggi ritorniamo sul tema dei prestiti per cercare di approfondire uno degli aspetti che stanno emergendo dagli ultimi osservatori del credito al consumo e del quale abbiamo già avuto modo di parlare, ma senza poter approfondire questa dinamica. Il credito al consumo nel nostro paese marcia ancora piuttosto sostenuto, c'è un bel segnale di rallentamento rispetto agli anni passati, quando il ramo dei prestiti, dei finanziamenti cresceva a due cifre. Adesso sta cominciando un po' tutto a rallentare, ma c'è una tendenza che spicca su tutte, in particolare nel settore del finalizzato, cioè quegli prestiti che vengono fatti per l'acquisto di beni durevoli come l'auto, gli elettrodomestici. C'è una frenata appunto per quello che riguarda questo comparto, mentre sono ritornati a riprendere quota i prestiti personali e soprattutto le cessioni del quinto, dello stipendio e della pensione. Come dobbiamo interpretare questo fenomeno? Come mai c'è questa tendenza? Ma soprattutto, quali sono le caratteristiche di queste formule di finanziamento? Quali sono le procedure per richiedere un prestito di questo tipo? E a chi ci si rivolge, visto che la restituzione viene fatta attraverso direttamente una trattenuta in busta paga o in pensione? Il tema che affrontiamo questa mattina, naturalmente grazie anche alle vostre domande all'800 24 00 24 o al 349 9238 6666. Con chi ne parliamo? Intanto con una società leader nel settore in Italia, Actesios, l'amministratore delegato, l'ingegner Massimo Minucci, e poi Fabio Picciolini, segretario nazionale della Diconsum, e quindi ovviamente sentiremo anche cosa ne pensano le associazioni dei consumatori. La borsa questa mattina era partita male dopo quello che è successo ieri sera a Wall Street. Gli indici americani sono crollati di nuovo di 3,5 punti. Il mercato azionario americano è ritornato sui livelli a cui si trovava nel 1997, quindi stiamo indietro di 11 anni, e ovviamente quello che è accaduto a Wall Street ieri sera non poteva non farsi risentire stamattina in Asia e poi in Europa. L'Asia ha perso, vi do la variazione percentuale del Nikkei, l'indice giapponese, -1,46%, ma ad un certo punto della seduta era sceso molto di più, ritrovando addirittura livelli che non vedeva, pensate, da 26 anni a questa parte. E anche la borsa europea sta viaggiando sui minimi da un bel po' di anni a questa parte, con Parigi che scende dell'1,11%, Francoforte -1,76%, Londra -1,15%, Milano -1,31%, ma poco fa erano arrivate a perdere anche 2,5 punti Francoforte. Il tema è sempre quello, il precario stato di salute delle banche. L'allarme della Commissione europea, lanciato ieri di nuovo, più che di un allarme, si è trattato di una bella presa di coscienza del fatto che probabilmente in Europa delle nazionalizzazioni bancarie saranno necessarie. Era uno spettro che si era un po' allontanato nel fine settimana e che invece ieri è ritornato con grande preoccupazione, e naturalmente su questa prospettiva il mercato vende a piene mani. Insomma, un mercato è una prospettiva che proprio non accetta. Ma a pagine già, sì, a pagine gialle, a Piazza Affari ci sono anche altri temi su cui gli operatori concentrano l'attenzione, tra cui Seat, pagine gialle, che anche stamattina crolla del 7,65%. Ieri ha avuto un ribasso di quasi 20 punti. Da quando il gruppo ha presentato il suo piano industriale, il mercato lo sta tornando ad abbandonare di nuovo. Ci sono state le dimissioni dell'amministratore delegato, c'è stata un'aggregazione di azioni, quindi un riassetto azionario che però viene anche in questo caso bocciato dal mercato, per cui è proprio negativo il mercato su questo titolo. Unipol -6,76, Fiat -4,86. Ieri il gruppo è stato declassato da Moody's, i titoli di debito a lungo termine sono stati giudicati junk, spazzatura. Questa è la reazione del mercato azionario oggi. E poi abbiamo anche il caso molto interessante di Finmeccanica, che anche oggi perde 4,5 punti, perché pare che l'amministrazione Obama abbia intenzione di bloccare la seconda commessa per gli elicotteri presidenziali, costruiti appunto da una cordata della quale fa parte l'azienda italiana, e stiamo parlando del consorzio italo-britannico-americano Lockheed Augusta Westland. E quindi insomma una commessa importante che per Obama viene ritenuta uno spreco, e questa è la reazione del mercato rispetto a questa prospettiva. Poi abbiamo la grande aggregazione tra Generali e Alleanza, che è stata formalizzata ieri. Questa mattina in conference conference call con gli analisti generali, i vertici hanno spiegato le modalità dell'operazione, ma anche in questo caso un'altra bocciatura del mercato, perché a parte l'allineamento al concambio fissato per la fusione, c'è a quanto pare, secondo le interpretazioni, anche una bocciatura ulteriore da parte degli operatori, a giudicare dalla reazione dei titoli. Generali meno 3,84%, Alleanza adesso fa in realtà meno 2,57%, ma in avvio di seduta perdeva 6,5 punti. Direi di lasciare anche quest'oggi questo bollettino di guerra che insomma ci deprime e non poco. Parliamo invece un po' delle attitudini ai prestiti da parte delle famiglie italiane. Ci sono molti cambiamenti nello scenario, ne abbiamo parlato più volte. Si tende adesso a comprare un po' meno beni durevoli, quindi meno auto, meno elettrodomestici. C'è stato anche un intervento del governo proprio per ridare un po' di smalto a questo settore, e a quanto pare però per arrivare a fine mese forse le famiglie hanno un orientamento diverso, quello di chiedere direttamente alla banca o alla finanziaria un prestito personale, quindi maggior liquidità, e una di queste forme è proprio quella della cessione del quinto dello stipendio. Sentiamo però qual è intanto la tendenza del settore. La crisi finanziaria si è ormai diffusa a macchia d'olio, ma sembra esserci un settore che in parte è riuscito a resisterle o perlomeno ad evitarne gli effetti più dirompenti. È il comparto del credito al consumo, che in Italia, nonostante qualche segnale di rallentamento, rimane il più gettonato tra le diverse forme di finanziamento alle famiglie. Un settore che, se da un lato ha visto crollare al suo interno i prestiti finalizzati all'acquisto di beni durevoli, elettronica, elettrodomestici e auto, come conseguenza della gelata dei consumi, dall'altro ha assistito alla ripresa di richieste per prestiti di liquidità e, ancora di più, di prestiti con la formula della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, che godono del vantaggio dell'intermediazione del datore di lavoro o dell'ente pensionistico. È ormai chiaro che è in atto un vero e proprio travaso della domanda di credito verso i cosiddetti prestiti personali, quelli erogati direttamente dalle banche, dalle finanziarie, scavalcando il punto vendita. Un trend emerso già a dicembre dall'osservatorio Assofin CRIF Prometeia, che evidenziava come l'orientamento della domanda si stesse spingendo da mesi verso forme di credito diretto. I finanziamenti non finalizzati rappresentavano nel primo semestre 2008 il 57% del totale dei flussi erogati da banche finanziarie. A sostenere il mercato sono stati infatti i crediti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in crescita del 39,4% rispetto all'anno precedente, e i prestiti personali più 14,5%, mentre per il settore del finalizzato si è assistito ad una contrazione del 10,4%. Percentuali che hanno accelerato nella seconda parte dell'anno. I prestiti personali, le carte di credito e la cessione del quinto dello stipendio rappresentano il 61% complessivo del mercato del credito al consumo italiano. Il restante 39% è distribuito nel finalizzato, la cui larga parte è stata orientata nell'ambito delle quattro e delle due ruote, mentre il settore del prestito per elettrodomestici ed elettronica di largo consumo ha avuto un crollo di oltre il 21%. E sul tema del credito a famiglie e imprese è intervenuto anche il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, sabato scorso nel corso del Forex, il convegno annuale degli operatori finanziari. Draghi ha ribadito l'importanza di definire criteri sani e prudenti per erogare i prestiti da parte delle banche. Mantenere un'offerta adeguata di credito preservando al tempo stesso criteri sani e prudenti di erogazione dei prestiti. Questa è la sfida per il sistema bancario nel 2009. Una stretta creditizia aggraverebbe la recessione. Una minor prudenza rischierebbe di riflettersi sulla stabilità delle banche, con gravi conseguenze per la capacità, per la stessa capacità di erogare credito nel medio periodo, per la stessa economia. La disponibilità di finanziamenti all'economia non va perseguita allentando gli standard di valutazione del merito di credito, ma con un irrobustimento del patrimonio che rimuova vincoli indebiti all'espansione dell'attivo. E sono piuttosto prudenti le banche e le finanziarie in questa fase, perché insomma, giudicare anche da molte denunce che ci arrivano, in realtà sono diventate molto più restie ad erogare credito a magari a piccoli consumatori, ma anche e soprattutto alle imprese. Questo è un tema che magari avremo modo di affrontare in un'altra circostanza, molto spesso toccato anche a Focus Economia da Sebastiano Barisoni. Noi atteniamoci invece a, come dire, al piccolo, a quello che succede tra i piccoli e alla richiesta di finanziamento e prestiti da parte delle famiglie. Oggi appunto ci focalizziamo su cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Buongiorno e benvenuto a Salvadanaio, l'ingegner Massimo Minnucci, amministratore delegato di Ctesios. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a lei e buongiorno a Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum e tra l'altro reduce da una riunione al Ministero dell'Economia in cui si è parlato di trasparenza bancaria. Picciolini? Buongiorno, innanzitutto sì, la riunione è ancora in corso, ma a salvaguardia non si può dire di no. Ma di che cosa avete discusso? Ci può dire qualcosa? Sì, la Banca d'Italia, come è noto, sta per lanciare una consultazione pubblica per la riforma della trasparenza bancaria, le norme del 2003, e c'è un primo incontro in cui stiamo affrontando i principi che guideranno appunto la riforma di questo argomento. Beh, mi sembra che siamo a tema allora questa mattina. Certo. Perché tra l'altro quella della cessione del quinto dello stipendio è una formula largamente diffusa in questo momento. Nel 2008 ha visto una crescita esponenziale, come dicevamo, a svantaggio di altre forme di prestito, però per qualcuno è anche una formula non totalmente trasparente, perché per poter essere acceso un finanziamento di questo tipo deve avere anche collegata spesso e volentieri una polizza il cui costo non rientra poi nel costo complessivo di tutto il finanziamento. Insomma, luci ed ombre che cercheremo di affrontare questa mattina. Allora, Massimo Minnucci, io ho avuto modo di sentirla anche per il Sole 24 Ore, lei mi ha raccontato un po' cosa sta succedendo a questo settore, una crescita enorme nel 2008, come l'avete interpretata? Ma la crescita è interpretabile guardando i dati dei flussi 2008 con una grande crescita del volume dei pensionati in modo particolare, che sono moltissimi in Italia. Il bacino potenziale dei clienti o dei fruitori della cessione del quinto è a nostre stime di circa 25 milioni, costituiti per circa 14 milioni da pensionati, e il resto sono dipendenti pubblici e privati, quindi un bacino di grande interesse anche dal punto di vista sociale. E l'avvio con la riforma di un paio di anni fa, che ha aperto ai pensionati la cessione del quinto, ha creato diciamo un grande potenziale che ancora non si esprime, perché appunto il prodotto rimane un po' complesso e richiede una veicolazione non facile direttamente dal fruitore finale. Però devo dire che la crescita del 2008 è il peso al 77% dei flussi i pensionati, quindi la crescita prevalentemente avviene da quel comparto. Fabio Picciolini, Adiconsum, come valuta l'Associazione dei Consumatori la crescita esponenziale di questo settore nell'anno che si è appena chiuso, e forse questo 2009 potrà continuare a confermare la tendenza? Una crescita che è stata, come dicevamo, a scapito di altre forme di finanziamento, qualcuno la interpreta come effettivamente una grande difficoltà per le famiglie di arrivare alla fine del mese e si cerca il canale, non dico più facile per ottenere credito, ma qui insomma se il passaggio è anche l'azienda per la quale si lavora, allora magari si ha la percezione di poterlo ottenere più facilmente, se poi lo sportello in banca ci dice no. Ma dunque le valutazioni iniziali sono le stesse dell'ingegner Minnucci, che saluto chiaramente, perché i pensioni sono stata la grande massa. Io aggiungerei, in senso non molto positivo, che poi in fin di conti per le persone in servizio, per i lavoratori invece, si tratta sempre di una fascia abbastanza ristretta, si parla di non più di 500.000 persone che vanno, girano in continuazione, rinnovano e via dicendo. Io aggiungerei un altro aspetto che è la crisi, che dipende dalla crisi attuale, ovvero la cessione del quinto dello stipendio, su cui sicuramente torneremo successivamente anche come normativa, che è molto, molto vecchia purtroppo, sì. Molto vecchia, c'ha più di 60, ormai c'ha 60 anni quasi, e consente di dare credito a chi credito non lo avrebbe se va allo sportello bancario. Perché? Perché magari ha avuto un protesto, perché è stato segnalato in un sistema di informazione creditizia e via dicendo. Quindi la cessione del quinto in quanto tale è un'operazione interessante, purtroppo, come ho detto, è un'operazione purtroppo ormai vecchia. E l'ingegner Minnucci, ma molti sanno, lei stessa sa, la dottoressa Rosciani, che ci stiamo lavorando da 2-3 anni, purtroppo non si riesce a portare avanti una riforma vera che consenta di utilizzare meglio questa operazione. C'è tutto, tra l'altro, una riforma del credito al consumo che aveva avviato l'ex sottosegretario all'economia Roberto Pinza, che è stata bruscamente bloccata e per il cambio di governo e per tante altre problematiche, e probabilmente anche quello del credito al consumo era un ramo che andava disciplinato in questo ambito legislativo. Vedremo insomma se ci sarà maggior sensibilità più avanti, ma anche, voglio dire, con gli interventi che Banca d'Italia sta facendo, sempre più rigidi e severi in quanto ad applicazione delle norme sulla trasparenza per l'erogazione di credito a qualsiasi livello. Speriamo che anche questo lavoro porti nel risultato. Dottor Minnucci, allora, abbiamo Mariuccia dalla provincia di Varese. Allora io gliela faccio subito sentire, così grazie all'aiuto della nostra ascoltatrice cominciamo a spiegare subito come si fa ad ottenere un finanziamento di questo tipo, quanto costa e anche quali garanzie dobbiamo presentare noi per poterlo ottenere. Mariuccia, benvenuta. Buongiorno, complimenti a lei. infiniti, che è un tesoro. Grazie Mariuccia. Comunque niente, la mia domanda era questa: io ho qualche cosina di risparmio che però non voglio toccare, e vorrei, siccome ho delle spese da fare in casa inderogabili, sono anni che le trascino, e vorrei chiedere un piccolo prestito alla banca, così mi sono informata e mi hanno detto che me lo potrebbero concedere. Volevo sapere se era più conveniente fare il rimborso rateale con una rata che stabilirò in base alla mia pensione, o se è più, diciamo, tranquillo per me la cessione del quinto. Però sentivo adesso che c'è una polizza da pagare. Infatti Mariuccia, allora intanto senta, non voglio essere scortese visto che lei mi ha dato del tesoro, ma le posso chiedere quanti anni ha Mariuccia? Oh, guardi, sono vecchia, 72, però io ho la mia vecchia casa, non ce la faccio più vivere così. Appunto, quindi ha tutta la vita davanti, naturalmente tutto il diritto di avere una casa confortevole, quindi tutto il diritto di poterla sistemare con un po' di soldini che potrebbe ottenere in qualche maniera. Qual è l'importo che teoricamente le servirebbe, Mariuccia? Come? L'importo, quanto le servirebbe? Ho dei 5.000 e 6.000 euro, io ho qualche cosina in banca, ma non lo voglio toccare, certo. Perché poi non hanno la scadenza, e una cosa e l'altra. Allora pensavo, un piccolo prestito, che è vero che mi costa qualcosa in più, però mi dà respiro. Certo, Mariuccia, un'ultima cosa che mi serve sapere, pensionata INPS? Sì, sì. Benissimo, credo di avere tutte le informazioni che ci servono, dottor Minnucci, per fare, lei che dice, un piccolo preventivo a Mariuccia? Ma assolutamente, questo lo possiamo fare e poi glielo inviamo molto volentieri. Ma direi che una considerazione di sostanza: la cessione del quinto sicuramente è un modo semplice, perché troverebbe addebitata sulla pensione l'importo della trattenuta. Rata. Ovviamente è un finanziamento sia per i dipendenti che per i pensionati, che prevede una polizza assicurativa che ne garantisce l'esito, ovvero la polizza assicurativa, che nel caso di Mariuccia sarebbe esclusivamente sulla vita perché evidentemente non è più in servizio, garantirebbe l'intero ammontare del finanziamento e non implicherebbe nessun merito valutativo da parte della banca, per cui un costo c'è, perché evidentemente è un costo legato all'età, per cui i 5-6 mila euro, se fa un'operazione a 5 anni vuol dire che la restituisce a 77 anni, quindi evidentemente. Quindi allora, per l'importo, tanto per dare, come dire, dei criteri di base, per un importo come quello chiesto da Mariuccia, intanto il finanziamento potrebbe essere istituito in quanti anni? 5. Dipende dalla capienza della sua entrate, certo. Quindi adesso non so la pensione di Mariuccia quant'è, ma diciamo che. Sì, Mariuccia, no, adesso in parte non c'è neanche bisogno che ci dici insomma qual è la pensione, quindi possiamo anche fare una a parte, gli mandiamo un preventivo in modo che abbia assolutamente trasparenza di questo. Però 850 ci diceva Mariuccia, dottor ingegner Minucci. No, vabbè, adesso non c'è bisogno neanche di fare un calcolo seduta stante per capire, ammettendo appunto, facendo poi un rapido calcolo, che il quinto corrispondesse ad una restituzione da fare in 5 anni. Come dire, i termini pratici della questione, a chi si deve rivolgere Mariuccia? Le conviene rivolgersi all'ente previdenziale, oppure va in banca e le dice: io voglio fare un finanziamento con voi, ma con questa formula? Ma diciamo che attualmente alcune banche hanno attivato allo sportello la proposta in convenzione, ma il mercato distributivo prevede agenzie, agenti di attività finanziaria, quindi direi che la cosa migliore è confrontare almeno un paio di proposte per vedere quali sono quelle che maggiormente danno una risposta anche in termini di servizio, per cui direi un consiglio generale è almeno farsi fare due preventivi diversi sul quale vedere effettivamente. In questo caso è veramente semplice, perché il pensionato, le variabili sono veramente poche, per cui diciamo che in termini di qualche giorno avrebbe sicuramente il finanziamento, rivolgendosi sia a qualche banca convenzionata oppure a qualsiasi agente in attività finanziaria. E infatti, però, a quello che serviva a capire a Mariuccia, che cosa le conviene fare? Se fare l'attivazione della cessione del quinto dalla pensione o chiedere un finanziamento personale più semplice, diciamo, per le modalità con cui secondo Mariuccia viene erogato, ma magari può essere meno conveniente. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Questa mattina stiamo affrontando uno dei tanti aspetti emersi negli ultimi mesi con le tendenze del credito al consumo. Lo sapete sapete bene, il popolo delle rate è tanto cresciuto negli ultimi anni nel nostro paese, e però adesso assistiamo a qualcosa di molto preciso, cioè i prestiti sì, continuano ad essere chiesti, ma che tipo di prestiti? Non si chiedono più molti prestiti come il passato per acquistare l'auto nuova o per acquistare la lavatrice, e, insomma, i beni durevoli, ma si chiedono un po' di più prestiti personali, si chiede anche più cessione del quinto dello stipendio o cessione del quinto della pensione. E allora noi abbiamo tentato intanto di capire come mai questo sta avvenendo, ma soprattutto per chi si ritrovasse nella necessità di chiedere un finanziamento secondo queste modalità, a che cosa deve stare attento e soprattutto come fa anche a valutare la convenienza. Questa era la domanda su cui si concentrava appunto una nostra ascoltatrice di Busto Arsizio, Mariuccia, dice 72 anni, devo fare un po' di lavori in casa, chiedere un piccolo importo, 5.000 euro, potrei andare in banca e mi hanno già detto che me lo potrebbero erogare senza problemi, e questo è il finanziamento personale. Come faccio a stabilire però se mi conviene di più fare la cessione del quinto, grazie al quale la rata mensile mi verrebbe addebitata direttamente sulla pensione? Fabio Picciolini, Adi Consum, lei che cosa suggerirebbe a Mariuccia? Ma il caso della signora Mariuccia è emblematico, perché vuole un piccolo prestito, sicuramente essendo una pensionata IMSS avrebbe un tasso, sicuramente o quasi sicuramente un tasso più basso di qualsiasi altra tipologia di prestito. Con la cessione del quinto? Con la cessione del quinto. Qual è il problema? Il problema è sono due i problemi esattamente. Il primo, che oltre il tasso, appunto, che va per l'interesse, va pagato, c'è una assicurazione sulla vita, come diceva il rappresentante di Tesios, e l'assicurazione sulla vita a 72 anni sappiamo che purtroppo non è di basso importo, e quindi potrebbe essere un aumento non indifferente. L'altro aspetto altrettanto importante, ecco perché prima dicevo che è necessaria una riforma della normativa, è che la cessione del quinto, così come oggi, prevede che... Abbiamo perso Picciolino, ogni tanto la perdiamo, sì. Allora, eravamo rimasti alla normativa un po' arretrata. La normativa è un po' vecchia. Dico perché? Perché la normativa prevede che tutti i costi siano anticipati, spese, assicurazione, interessi, via dicendo. Per cui se la signora ha bisogno di avere 5.000 euro in tasca, sicuramente l'importo del prestito che lei chiederà dovrà essere di importo superiore. Quindi anch'io sono d'accordo che bisogna fare un preventivo, confrontare almeno un paio di situazioni in cessione del quinto, e almeno, perché ci sono anche convenzioni per i pensionati per le altre tipologie di prestito, vedere anche se con un prestito semplicemente non finalizzato quali sono appunto i costi e qual è la convenienza migliore. Quindi mettiamola così, da quello che ho potuto capire, con la formula del quinto, della cessione del quinto della pensione e la convenzione con gli enti previdenziali, magari Mariuccia può spuntare una condizione migliore, che però verrebbe magari ricaricata con tutti gli accessori che sono necessari per attivare un prestito di questo tipo. D'altro canto, facendo il prestito personale normale, tradizionale, magari già lì si parte da un costo più alto, il prestito però non contempla la polizza, però siamo proprio sicuri che magari il personale per una persona di 72 anni non contempli anche una polizza che tuteli la finanziaria da eventuali problemi? Non è obbligatoria, quantomeno, mentre la sessione del quinto è obbligatoria. Perfetto. Minucci, so che l'avevo messa in difficoltà facendo un po' di calcoli prima, così, però ci piaceva magari aiutare un po' di più Mariuccia per spiegarle magari quali potessero essere i costi a cui andava incontro. Abbiamo calcolato che un quinto di 850 euro è 170 euro, intanto almeno su questo siamo tranquilli. Diciamo che in generale... una considerazione sulla cessione del quinto è che i costi fissi, come diceva Fabio Picciolini, che sono oggi parte integrante... Dottor Minucci però mi deve togliere il viva voce, deve riprendere la cornetta gentilmente, che la sentiamo meglio. Un attimo. Questa mattina mi state facendo soffrire con i telefoni entrambi. Minucci, la ripresa? Allora, intanto facciamo una cosa, sentiamo Domenico da Campobasso, così diamo il tempo di sistemare anche le linee telefoniche ai nostri interlocutori di questa mattina. Domenico, benvenuto. Buongiorno. Senta, per cortesia, volevo chiedere, io ho in corso un prestito che ho stipulato chiedendo il quinto della pensione. Pago circa 300 euro al mese che si trattengono sulla pensione. Ho dovuto fare la polizza, come dicevate voi prima, la polizza sulla vita. Volevo chiedere, mi è stato spiegato e in parte si evince pure, però non in modo chiaro, se sfortunatamente mi dovesse capitare qualcosa nel corso di questi 5 anni, a mia moglie non è che verrà chiesto che dovrà lei continuare a pagare le rate. Domenico, lei ci ha fatto una domanda bellissima, perché ovviamente oltre al problema che queste polizze costano e vengono caricate come oneri anche su tutto il finanziamento, teoricamente come tag, ma poi non ci rientrano spesso sul tasso effettivo annuo globale, il tema è comunque se io vengo a mancare e stipulo una polizza proprio per far come dire, per proteggermi da questa eventualità, non è che poi in realtà la finanziaria rincorre mia moglie e chiede la restituzione mancante del prestito a lei. Picciolini, poi sentiamo se Minucci lo abbiamo recuperato. Picciolini, che dice? No, assolutamente no, sarebbe una scorrettezza, perché l'assicurazione sulla vita copre sia il capitale sia gli interessi, quindi nel momento in cui dovesse, ma il Dio non voglia, capitare qualcosa, la signora deve sentirsi liberata, e questo è un altro dei vantaggi della cessione del quinto rispetto ad altre tipologie di operazioni, dove invece gli eredisono coinvolti nel caso appunto di morte. E infatti che è la questione del prestito vitalizio che oggi accantoneremo, magari ne abbiamo parlato altre volte. Massimo Minucci, l'abbiamo recuperata? Devo dire, confermo ciò che dice Fabio Picciolini, l'assicurazione sulla vita è assolutamente una garanzia che è legata al finanziamento, non c'è nessun tipo di rivalsa su eredi in ogni circostanza. Mm-hmm. Infatti il costo assicurativo della cessione del quinto rende fattibile il finanziamento, è un caso in cui effettivamente è un contributo reale all'operazione il costo assicurativo. Infatti altrimenti verrebbe a cadere tutta la necessità di fare la polizza. È la testata d'angolo sul quale regge questo tipo di strumento giuridico, di tale parlerei, che è partito all'inizio del Novecento, quindi direi che quell'assicurazione in questo caso è un punto fondamentale. Quello che volevo dire, tornando all'aspetto dei costi, è che la cessione del quinto su un'operazione abbastanza piccola, quale potrebbe essere di 5-6 mila euro della nostra signora, sicuramente ha i costi fissi che pesano in modo significativo, quindi direi in termini di ottimizzazione l'operazione, se diventa di un importo leggermente più alto, forse diventa con un tasso più efficiente. Non a caso, come sapete, nelle categorie di tasso abbiamo una griglia che fino a 5.000 euro e sopra 5.000 euro cambiano i parametri di riferimento di Banca d'Italia, proprio perché l'operazione a 5.000 euro ha necessariamente un tasso più elevato, perché il costo fisso viene spalmato su un importo. Infatti, no, io questo lo capisco, purtroppo credo che magari farlo capire ad un ascoltatore come può essere Mariuccia, che si trova in uno stato di necessità e deve appunto farsi fare qualche preventivo in banca, magari bisognerebbe parlargli in maniera più semplice, non per contestarla, dottor Minucci, cioè, la ringrazio assolutamente per averci fatto capire invece quanto è importante anche stabilire certi grimaldelli sul capitolo costi. Tornando alla nostra ascoltatrice, però, per esempio, stavo pensando, lei si è fatta fare, ci ha raccontato, un preventivo dalla sua banca per un prestito personale, e la banca le ha detto sì, te lo possiamo dare senza problemi, ma alla stessa banca, se anche fosse, soprattutto se fosse un istituto grande, potrebbe chiedere anche: se io ti chiedo la cessione del quinto della pensione, che condizioni mi fai? Potrebbe essere lo stesso interlocutore che le fa due preventivi diversi. Direi che la proposta corretta di una banca efficiente è proporre più opportunità al cliente, per cui il tema nel caso del finanziamento senza cessione del quinto, direi che gli conviene perché non paga la polizza, parlando in modo concreto, perché a 72 anni il costo polizza è un costo che non è 100 euro, perché necessariamente viene considerato il rischio della premorienza della signora. Che e infatti il tema, il tema è questo. Per cui, è evidentemente questo. Per cui diciamo che per di più messo su un importo basso diventa sensibile. Però in termini concreti, il tasso medio, prendendo l'indicazione di Banca Italia, dei prestiti personali oggi è leggermente più alto di mezzo punto della cessione del quinto, quindi oggi la cessione del quinto costa un po' meno dei prestiti personali. Con l'esclusione della polizza o inclusa la polizza? No, chiaramente non tiene conto della polizza, però dice la polizza è un costo che è necessario a, quindi evidentemente in termini di rischio sistema c'è anche uno spostamento dei prestiti non finalizzati verso la cessione del quinto, perché oggettivamente non è il caso adesso della nostra ascoltatrice. Adesso chiudiamo, anche se abbiamo fatto tutta la puntata su Mariuccia, però per chiudere su questo caso, perché come diceva anche Picciolini è comunque emblematico, molto semplice anche da capire, su un prestito di 5.000 euro rimborsabile negli anni che abbiamo detto, ipotizzando 5 anni, quanto può costare una polizza applicata? Al caso di Mariuccia costerà un tipo, diciamo, 400 euro, questo è il costo della polizza. Spalmato in 5 anni, quindi tutto sommato, forse per la protezione che garantisce, magari non è neanche un costo molto elevato, o è molto elevato, Picciolini? Lei come lo valuta, Associazione dei Consumatori? Ho paura che a 72 anni sia un po' più alta, però ovviamente non ho le tavole con me, non posso dirlo, perché la signora ha un'età abbastanza avanzata, quindi ho paura che sia un pochino di più. Però se mi permette, lei ha sollevato un problema fondamentale, il discorso del tag e del tag, ovvero il tasso con la polizza e il tasso effettivo della polizza e quello senza polizza. Questo è uno degli aspetti che secondo me deve essere finalmente chiarito proprio dal legislatore, perché il cittadino, le faccio esempio, va in banca e fa un prestito non finalizzato, gli diranno il tag, se va alla stessa banca e gli chiede e chiedono di essere il quinto, gli danno il tag, ovvero gli danno l'importo senza assicurazione, che per lui è equivalente, certo, che non è affatto equivalente tag e tag. Ecco, allora è, ma io stessa mi sbaglio con questi termini e Minucci lo sa, tra l'altro. Quindi a mio avviso è necessario trovare una formula che consenta al cittadino di poter confrontare effettivamente le varie proposte che la banca, la finanziaria vuole fare. E infatti, però il problema è, ad una persona, adesso io capisco anche magari un ragazzo di 30 anni che è un lavoratore dipendente in un'azienda, può anche spendere un po' del suo tempo, andare a cercare una persona un po' più anziana, che l'unica cosa che può proporre come garanzia ad un interlocutore finanziario è la propria pensione. Immaginiamoci, insomma, la nostra ascoltatrice Mariuccia che si mette ad andare in giro a cercare per banca il finanziamento che fa per sé, quindi magari qui esploriamo, come dire, un altro tipo di problema. Forse per certe figure andrebbe invece praticata la strada di soluzioni semplici, trasparenti, magari poco costose, proprio in virtù del fatto che sia solo la pensione e come dire, ed esigenze limitate e anche minori garanzie, quindi però insomma anche qua, come dire, apriamo il campo ad altre considerazioni che forse questa mattina non trovano spazio. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, cessione del quinto della pensione, cessione del quinto dello stipendio. Andrea da Treviso alza il velo su un problema che, Andrea, lei mi sta bacchettando sulle mani, però io le assicuro che avrei voluto affrontarlo entro pochissimi minuti. Ci dica, buongiorno. Buongiorno. Allora sì, io tra l'altro sono un mediatore, quindi conosco un po'. Infatti proprio quella categoria lì volevo introdurre. Sì. Finora ne ho fatte una o due cessioni di quinto, però sono rimasto scandalizzato dalla misura delle provvisioni che i mediatori applicano a questo tipo di finanziamento. Di che misura sono, Andrea? Ma parlano anche del 10-12%, insomma. E proprio non c'è trasparenza verso i clienti. Insomma, lo abbiamo capito questa mattina anche dai dubbi che sollevano le associazioni dei consumatori. Andrea, io la ringrazio. Ingegner Minucci, vuole dirci lei qualcosa a questo proposito? Voi siete degli erogatori diretti oppure erogate finanziamenti attraverso il canale del mediatore creditizio? Quindi quali sono i canali che utilizzate? Soprattutto quanto costa utilizzare questi canali e come questi costi si riverberano sui consumatori che chiedono questi finanziamenti? Ma guardi, noi siamo un gruppo che opera sia con rete diretta che con rete di agenti e mediatori, che di fatto il mercato in Italia ancora a buona parte è coperto da questa modalità distributiva. Direi che la trasparenza nei contratti e la qualità dell'operatore è fondamentale, perché un agente può essere un agente onesto se lavora con un interlocutore onesto, e un agente, diciamo, poco trasparente se gli viene consentito di farlo. Con riferimento ai contratti, nel nostro caso abbiamo tag e tag espresso con grande trasparenza, e quindi complesso leggere due numeri anziché uno, ma assolutamente chiaro, e anche in questo senso le provvigioni degli agenti sono chiaramente ricomprese nei costi che vengono indicati in contratto, e il tag dell'operazione o il tag, che noi indichiamo anche il tag, lo contiene. La nostra media è la media dell'Osservatorio Banca d'Italia, quindi il costo medio del nostro prodotto è intorno al 9%, comprendendo gli interessi e le commissioni dei mediatori. Il mediatore chiede 10 punti di provvigioni, per lui è una cosa, diciamo, difficile giudicare in questo senso. È un importo elevato, e se viene chiesto in modo trasparente, messo nel contratto, potrebbe anche diventare legittimo, però se invece viene chiesto in modo irrituale, evidentemente è un comportamento che cosa definisce irrituale? Fuori contratto, in nero, non lo so. Vorrei sottolineare che, considerando che c'è anche Fabio Vicioni in linea, dico, noi come società, come stesso, abbiamo sottoscritto con successo un protocollo con Adiconsum, proprio per dire, insieme controlliamo e miglioriamo il mercato. Cioè, ogni nostro cliente ha diritto ad avere una consulenza da parte di Adiconsum per eventuali contestazioni in merito al contratto. Sentiamo però se Fabio Picciolini ci dà qualche suggerimento in merito invece al comportamento da tenere in fase di trattativa, se l'interlocutore a cui ci rivolgiamo per una cessione del quinto dello stipendio della pensione è il mediatore creditizio. So che Fabio Picciolini, abbiamo partecipato a tanti eventi insieme, conosce molto bene questa categoria, una categoria che tra l'altro si sta ripensando molto seriamente in questo momento, ma come in tutte le categorie ci sono dei personaggi che lavorano con grande serietà, la cui reputazione però buona viene naturalmente oscurata da chi il suo lavoro non lo fa correntemente e chiede per esempio delle provvigioni fuori o oltre misura, appunto da nel caso di cui parliamo questa mattina per la cessione del quinto, insomma percentuali allucinanti, come il caso un 10% su un finanziamento, non lo so, di 5.000 euro per Mariuccia, certo. Direi, ma Picciolini. Partiamo da un presupposto che i numeri non sono mai belli, ma vanno dati. Su 150.000 mediatori agenti, solamente meno di 10.000 sono persone giuridiche, ovvero sono molte persone che si sono riciclate a fare mediatori, a fare gli agenti, e non sono soggetti che personalmente, lei lo sa bene, io consiglio, perché vorrei sempre che correttezza, come diceva l'ingegner Minucci, esatto, se l'interlocutore è corretto non c'è nessun problema, va bene anche la rete esterna, ma ci deve essere un rapporto estremamente corretto. Purtroppo non sempre no, anche perché magari questo. Il mediatore, mi scusi se la interrompo Picciolini, ci può fare quei 4-5 preventivi che magari non abbiamo tempo di fare e spuntarci lui la condizione migliore teoricamente sul mercato, dovrebbe essere questo il suo lavoro? Ma infatti, allora diciamo che come si diceva all'inizio, c'era già una proposta dell'ex viceministro Pinza, attualmente è stato inserito un emendamento nel ricepimento della direttiva sul credito dei consumatori, dovrebbe normare anche la materia dei mediatori, e io come dicevo prima sono in una riunione, si parlava anche qui con Banca d'Italia di mediatori, perché sicuramente è uno degli anelli deboli così come è costruita la categoria oggi. Ripeto, fermo restando che ci sono persone per bene sicuramente, io penso a tanti codici deontologici che ho visto all'interno del settore della mediazione, ma penso anche a tante persone appunto che hanno il 10-12%. Il problema di fondo è, uno, che il mediatore secondo me deve cambiare un attimo la sua professione, come è avvenuto ad esempio nella finanza, cioè deve diventare un consulente, ovvero quello che diceva lei, non deve darti solamente quella risposta, ma deve consigliarti qual è la cosa migliore. Si diceva prima, magari 5.000 euro per la signora Mariuccia sono troppo pochi, gli costerebbero troppe spese fisse, lo porto solamente come esempio, certo. come ad esempio ci sono situazioni per cui una società rispetto a un'altra, io non faccio pubblicità a nessuno, ma a me ha fatto molto piacere poter dire ai miei iscritti che se hanno un problema sulla gestione del quinto con la società dell'ingegner Minucci, infatti, possono rivolgersi a noi, perché gli facciamo consulenza, eventualmente siamo anche, esatto, anche un reclamo. Insomma, vigilate. Questo è quello che noi chiediamo agli intermediari bancari e finanziari. Non avere anche paura di confrontarsi con voi. Allora, la cessione del quinto dello stipendio, non ce la facciamo proprio ad affrontarla, era il tema dal quale siamo partiti, quindi mi sembra anche incredibile. Ingegner Minucci, allora, sono un lavoratore dipendente, ho bisogno di un finanziamento perché devo sostenere delle spese straordinarie per la mia famiglia. Mi ha incuriosito molto l'aspetto, non abbiamo tempo forse di approfondirlo a lungo, l'aspetto relativo al fatto che basta la garanzia della busta paga e in realtà la società che eroga un finanziamento secondo questa modalità non fa un check-up di tutti gli altri eventuali finanziamenti in corso che una famiglia può avere. È così, perché molti ascoltatori dicono, ma allora se è così qui andiamo incontro ad un altro fenomeno subprime anche in Italia. Ma diciamo che nella verifica dello stato di salute della busta paga del dipendente si considera evidentemente eventuali altri finanziamenti. Devo dire che esiste un documento che si chiama certificato di stipendio, che lo rilascia al datore di lavoro, dove dice effettivamente il grado quanto stipendio lui effettivamente percepisce nella sua busta paga. Chiaramente la libertà del dipendente di fare 1.000 finanziamenti per comprare 1.000 telefonini, questo è fuori della possibilità tecnica di poterlo verificare, quindi noi guardiamo la busta paga sulla quale vediamo quanto lui prende di stipendio e se ha magari una rata del mutuo, per esempio. Però il problema del sovraindebitamento è un problema complesso, serio, che riguarda aspetti educativi sui quali per esempio anche Assofin sta lavorando. Ma per esempio se una persona fosse già in arretrato con il pagamento di altre rate e chiede una cessione del quinto dello stipendio proprio per far fronte a queste problematiche già aperte, la cessione si fa? Noi possiamo vedere ciò che sappiamo, evidentemente. Potrebbe essere anche utilizzato in modo intelligente la cessione del quinto per fare un ripianamento dei debiti complessivi e riavere una rata assolutamente accettabile, che è proprio il quinto dello stipendio, che è, diciamo, ritenuta anche dal legislatore una rata sostenibile in una gestione di vita ordinaria. Chiaramente la cessione del quinto si presta a essere un finanziamento che non guarda il merito creditizio del soggetto che prende i soldi. Se tu sei un lavoro legittimo, hai diritto ad avere un finanziamento in Italia. Mm-hmm. Quindi questa è la forza dell'opportunità che offre la legge. E quindi in questo senso, stando alla norma di legge, di questo si parla. Devo dire che non è certo la cessione del quinto che crea il sovraindebitamento, semmai uno strumento per cercare di mitigare il problema. Il sovraindebitamento viene dal credito al consumo in senso classico. Adesso non voglio entrare in termini. No, perché non ce la facciamo, ingegner Minucci, ma. Diciamo che possiamo fare la cessione del quinto quello che può fare, non quello che non può fare. Certo. Allora, noi dobbiamo chiudere fra un minuto. Non riesco a far intervenire Renzo da Pistoia. Renzo, leggo però io la sua domanda che avrebbe voluto fare ai nostri interlocutori. Voleva chiedere un prestito in banca per ristrutturare la sua casa. Hanno proposto tassi nell'ordine del 10%. Come può fare? Dove trovare un prestito ad un tasso minore? Allora, Picciolini, che cosa fa con il primo preventivo della prima banca che ha sentito? Renzo deve cominciare a sentirne altre? Anche perché ci sono prestiti per ristrutturazione casa già previsti, sono dei pacchetti che offrono alcune banche, alcune società finanziarie, alcune banche specializzate, quindi può cercare qualche altra cosa. Il mutuo di ristrutturazione, sì. Esatto, in 15 secondi. Certo. Noi abbiamo chiesto che anche la cessione del quinto rientri fra quelle che vengono censite dai sistemi di informazioni creditizie. Beh, peraltro dovrebbe essere un problema superato con la nuova direttiva sui crediti al consumo, in quanto tutti gli intermediari dovranno valutare il merito creditizio, ovvero se una persona è capace di rimborsare tutti i propri debiti. Terza cosa, ma sarà un'altra puntata perché non ce n'è tempo, c'è una tipologia di prenditori che purtroppo per motivi ovvi e comprensibili purtroppo non può fare cessione del quinto, che sono proprio i giovani, quelli che sono a contratto, quelli che sono subordinati, che sono previsti nella legge, ma ovviamente proprio per la loro forma non possono accedere a questa tipologia di prestito. Secondo me cerca una soluzione proprio per i giovani. E infatti cogliamo l'invito, Picciolini, ad affrontare anche questo tema al più presto. Grazie al segretario nazionale della Diconsum, a Massimo Minucci, amministratore delegato di Ictesios, per essere stati con noi. Io ringrazio Gaia Romani e Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione, non solo per Salvadanaio ma anche per Soldi e Dintorni. Giorgio Mattei oggi in assistenza tecnica. Noi ci risentiamo domani alle 8:15 e anche alle 12 da Deborah Rosciani. Buona giornata.